spin-off della trilogia. Le Chante de l'Ange. Pubblicato nel 2022, questo spin-off risale al 2002. Ideato in concomitanza con le due raccolte di racconti brevi. Coloro che partirono dal centro del cerchio e l'esilio. Con le lettere del terrestre. Si accede alle esperienze, ai ricordi e pensieri di André. Personaggio presente nel capitolo. La Revelation, la rivelazione. Del romanzo Le Chante de l'Ange, il canto dell'angelo. E protagonista del racconto. I dormienti. Della raccolta Coloro che partirono dal centro del cerchio,